viaggiare. Viaggiare è proprio utile, fa lavorare l'immaginazione, tutto il resto è soltanto delusione e fatica. Il viaggio che ci è dato è un viaggio interamente immaginario e questa è la sua forza. Un viaggio che va dalla vita alla morte, a uomini, bestie, città e cose. È tutto inventato, è solo un romanzo, nient'altro che una storia fittizia. E lo dice anche Littre, poi, che è uno che non si sbaglia mai. In ogni caso, tutti possono fare altrettanto. Basta chiudere gli occhi. È dall'altra parte della vita. Thank you. È cominciata così. Io non avevo detto niente. Giuro, niente. È stato Arthur che mi ha fatto parlare. Ci troviamo a Plasglishi, era dopo pranzo, e ci accorgiamo che non c'era nessuno per le strade a causa del caldo. Niente vetture, no? Nulla. E quando fa molto freddo è lo stesso. Non c'è nessuno per le strade a Parigi, no? Cioè i parigini hanno sempre l'aria occupata, ma di fatto vanno a passeggio da mattina a sera. Prova ne è che quando non va bene per passeggiare perché fa troppo freddo o troppo caldo non li vedi più. Sono tutti dentro, a prendersi il caffè con la crema e boccali di birra. È così. Il secolo della velocità, ti dicono loro, no? Il secolo della velocità. Ma dov'è questi grandi cambiamenti che ti raccontano loro? Dove sono? Non è cambiato niente, in verità, niente. Sono loro che continuano a stupirsi. E basta. A stupirsi. E nemmeno questo è nuovo, sono parole. Parole e nemmeno tante. Anche le parole non sono cambiate. Tutti fieri d'aver fatto risuonare queste nostre utili verità, siamo rimasti là, incantati, a guardare le dame del caffè. Che signor giornale che è Le Temps. Ecco che mi provoca Arthur. Ce n'è mica un altro come questo. Come difende la razza francese. Beh, ce n'è proprio bisogno la razza francese. Visto che non esiste. Gli ho risposto io. Per fargli vedere che ero documentato anche, colpo su colpo. Come no, sì che ce n'è una. È anche bella come razza, Bardemò. Insisteva lui. È la più bella razza del mondo, Bardemò. È cornutaccio chi dice il contrario. E poi eccolo che parte a gridarmi addosso. Io ho anche tenuto duro, ben inteso. Arthur, la razza, quella che chiami così, è solo questa grande accozzaglia di poveracci del mio stampo. Cisposi, pulciosi, cagoni, che sono cascati qui, inseguiti dalla fame, dalla peste, dai tumori, dal freddo, che sono arrivati qui già vinti dai quattro angoli della terra solo perché non potevano andare più in là, perché c'era il mare. E questo è la Francia, no? Questo sono i francesi. E siamo nati fedeli. Siamo nati fedeli noi altri. Fedeli. Fedeli. Siamo tutti soldatini a gratis. E fedeli crediamo noi altri. Fedeli. Eroi, eroi per tutti, e scimmiette, scimmiette parlanti con le nostre parole, sempre sofferte, siamo i cocchi di Re Miseria, siamo, è lui che ci possiede, e quando non fa il bravo lui ti stringe qua, che abbiamo le sue dita sempre intorno al collo, ci dà anche fatica a mangiare, bisogna fare molta attenzione se ci tieni a vivere, perché per un niente ti strozza, non è vita. Ah, ma c'è l'amore, c'è l'amore. Arthur, l'amore è l'infinito abbassato al livello dei barboncini, e c'ho la mia dignità io. Un Dio, un Dio che conta i minuti e i soldi, un Dio disperato, sensuale e brontolone come un porco, disperato, un porco sensuale, un porco con le ali dorate che casca dappertutto, pancia all'aria, sensuale, pronto alle carezze. Un brontolone e lui, un porco, come un porco, un padrone, padrone, un porco, con le ali dorate, che casca dappertutto, casca pancia all'aria, pancia all'aria, pronto alle carezze. È lui il nostro padrone. È lui padrone. Nostro padrone. Baciamoci. Baciamoci. Baciamoci. Baciamoci. Baciamoci. Guarda mo, guarda mo, la tua robetta non sta in piedi di fronte alla vita. Io sono per l'ordine costituito, Bardamò. Io sono per l'ordine costituito, Bardamò. E non mi piace la politica, non mi piace. Ma il giorno che la patria mi chiederà di versare il sangue per lei, a me mi troverà di sicuro pronto a darlo. E che siamo tutti seduti su una grande galera e remiamo tutti su queste trappole cercando di sfangarcela, ma cos'è che ne abbiamo in cambio? Niente, solo randellate, miserie, frottole e altre carognate del genere. Si lavora, dicono loro, si lavora. Ed è questo che è ancora più fetido di tutto il resto, il loro lavoro. Perché siamo noi che stiamo giù nelle stive a sputare l'anima, puzzolenti, con le palle che ci sudano. Ed ecco lì invece, in alto, sul ponte, al fresco, ci sono loro, belle femmine rosa, tutte gonfie di profumo sulle ginocchia. Loro ci fanno salire sul ponte ad uno, si mettono il cappello dell'alta uniforme e, come se niente fosse, te ne sparano in faccia una del tipo: banda di carogne, è la guerra, la guerra. Adesso li abbordiamo, questi porcaccioni che stanno sulla patria numero 2, e gli facciamo saltare la pignatta. Ale! Ale! C'è tutto quello che ci vuole a bordo! Tutti in coro! Spariamone una forte per cominciare da far tremare i vetri! Viva la patria numero 1! Che vi sentano da lontano! Chi griderà più forte avrà la medaglia e il confetto del buon Gesù! E quelli che non vogliono crepare in mare possono sempre crepare in terra, dove si fa ancora più in fretta di qui! quando ci sei, ci sei. Ci fecero montare a cavallo. Poi, in capo a 2 mesi che eravamo là sopra, rimessi a piedi. Forse perché il cavallo costava troppo caro, chi lo sa. Alla fine, un mattino, il colonnello era lì che cercava la sua cavalcatura, ma il suo attendente c'era partito insieme. Non si sapeva dove. In un posticino senza dubbio dove le pallottole passavano meno facilmente che in mezzo alla strada. Perché è lì, esattamente, che avevamo finito per metterci, il colonnello ed io. Nel bel mezzo della strada. Io che tenevo il registro, dove lui inscriveva gli ordini. E molto lontano sulla carreggiata, lontano fin dove si poteva vedere, c'erano questi 2 piccoli punti neri in mezzo, come noi. Ma erano 2 tedeschi, occupatissimi a spararci da un buon quarto d'ora. Lui, il nostro colonnello, sapeva, forse, perché quei 2 la sparavano. I tedeschi forse anche loro lo sapevano. Ero io che non lo sapevo, veramente. Io, per quanto lontano cercassi nella memoria, ai tedeschi non gli avevo mai fatto niente, ero sempre stato molto gentile ed educato con loro. Eppure, sopra le nostre teste, a 2 millimetri, a 1 millimetro anche dalle tempie, continuavano a vibrare l'uno dietro l'altro questi lunghi fili d'acciaio intriganti che tracciano i proiettili che cercano di ucciderti. Nell'aria calda, d'estate. Ecco, mai mi ero sentito così inutile, come in mezzo a tutte quelle pallottole e alle luci di quel sole. Una immensa universale presa in giro, mi dicevo. Non avevo che 20 anni in quel momento. Poi queste cascine deserte in lontananza, queste chiese vuote e aperte. Era un po' come se i contadini fossero partiti da quelle borgate per la giornata tutti, come per una festa all'altro capo del cantone, e ci avessero lasciato fiduciosi tutto quello che possedevano, no? La loro campagna, le carrette stanche all'aria, i loro campi, i loro recinti, la strada, gli alberi, anche le vacche, un cane alla catena, c'era tutto, insomma. Proprio perché ci trovassimo tranquilli a fare quello che volevamo durante la loro assenza. Era una cosa anche gentile da parte loro, pensavo. Anche perché se non fossero altrove, mi dicevo, se ci fosse stato ancora qualcuno qua da queste parti, noi non ci si sarebbe comportati in questo modo così ignobile. Non avremmo osato davanti a loro. Era proprio che non c'era più nessuno a sorvegliarci, nessun altro che noi. Eravamo un po' come quegli sposi che fanno le maialate appena tutti se ne sono andati. Fatto sta che questi tedeschi, accovacciati sulla strada, testoni e sparacchianti, tiravano male perché tiravano male, ma sembravano avere munizioni da vendere, magazzini pieni, senza dubbio. E il nostro colonnello, bisogna pur dire quello che è, manifestava un fegato stupefacente. Passeggiava, così, nel bel mezzo della carreggiata, tra le traiettorie, con la stessa semplicità con cui avrebbe atteso un amico sulla banchina della stazione, magari, soltanto un po' impaziente. Io già la campagna, bisogna che lo dica subito, non l'ho mai potuta capire, l'ho sempre trovata triste, con questi letamai che non finiscono più, queste case dove appunto la gente non c'è mai, questi sentieri che non vanno da nessuna parte, ma vi assicuro che se uno in più ci aggiunge la guerra, lì c'è veramente da uscire pazzi. S'era levato il vento nel frattempo, brutale. Da ogni lato delle scarpate i pioppi fondevano le loro raffiche di foglie a quei piccoli rumori secchi che da laggiù continuavano a venire verso di noi. Questi soldati sconosciuti ci mancavano di continuo, ma continuavano a metterci attorno 1000 morti. Ci si ritrovava come rivestiti. Io non osavo più muovermi. Il colonnello Il colonnello era un mostro. Adesso ne ero convinto. Era peggio d'un cane. Non si immaginava la sua dipartita. E capii al tempo stesso che dovevano essercene molti come lui nel nostro esercito. Dei prodi. E poi di sicuro altrettanti nell'esercito di fronte, no? Ecco, chi poteva sapere quanti? Uno, due? O molti milioni, forse in tutto? Ecco, fu in quel preciso momento che la mia caghetta divenne panico. Con esseri del genere, pensavo, questa imbecillità infernale poteva continuare all'infinito. Perché avrebbero dovuto fermarsi? Mai avevo sentito tanto implacabile la sentenza degli uomini e delle cose. Cioè, sarei dunque io, il solo vigliacco, sulla terra? Pensavo, e con che spavento, perduto in mezzo a 2 milioni di pazzi eroici e scatenati e armati fino ai denti, con gli elmetti, senza gli elmetti, senza i cavalli, sulle moto magari urlanti, o in auto fischianti, sparacchianti, cospiranti, volanti, in ginocchio, scavanti, defilanti, caracollanti sui sentieri, spedazzanti, schiacciati, pancia a terra, come in una cella di isolamento, per distruggere, distruggere, distruggere tutto, distruggere, sei Germania, Francia, continenti, sei distruggere tutto quello che respira, distruggere, più arrabbiati dei cani, in adorazione della loro rabbia, quello che i cani non fanno, 100.000 volte più arrabbiati di 1.000 cani e tanto più viziosi. Thank you. Ci sono un sacco di modi di essere condannati a morte. Ecco, cosa non avrei dato in quel momento per essere in prigione, invece di essere lì come un cretino? Per avere, per esempio, quando era così facile, con un po' di previdenza, rubato qualcosa da qualche parte, quando c'era ancora tempo. È che non si pensa a niente. Dalla prigione c'è ci vivo, almeno. Dalla guerra no. Ecco, tutto il resto sono parole. Se solo avessi avuto ancora tempo. È che non ne avevo più, purtroppo. Non c'era più niente da rubare, poi. Come sarebbe stato bello in una piccola prigione tranquilla. Ecco cosa mi dicevo. Una prigione dove le palle non passano, non passano mai. Ne conoscevo anche una, bella pronta già al sole, al caldo, come in un sogno. Quella di Saint Germain, per l'esattezza, così vicina alla foresta. La conoscevo bene perché passavo spesso di là, un tempo. Come si cambia. Ero un bambino allora. E la prigione mi faceva paura. È che non conoscevo ancora gli uomini. Non crederò più a quello che dicono e a quello che pensano gli uomini. È degli uomini, di loro soltanto, che bisogna avere paura. Sempre. Per mangiare. I ricchi fanno lavorare gli altri, come si dice. Il male i ricchi non lo fanno loro stessi. I ricchi pagano. Bisogno di uccidere i ricchi. E noi si fa di tutto per piacergli. E tutti sono contenti. Mentre le loro donne sono belle, quelle dei poveri sono brutte. È un risultato che viene dai secoli. Vestiti a parte, loro sono belle, carine, ben nutrite, ben lavate. Da quando c'è la vita, non è arrivata che a questo. Quanto al resto, c'è un bel darsi da fare, signori, ma tanto si scivola e si sbanda e alla fine si ricasca nell'alcol che conserva i vivi e i morti. Ma tanto alla fine, signori, non si arriva mai a niente. È assolutamente provato. È da tanti di quei secoli, signori, che possiamo guardare i nostri animali che nascono, faticano e muoiono davanti ai nostri occhi, senza che a loro gli sia mai capitato nient'altro di speciale che non fosse ricominciare lo stesso insulso fallimento. Esattamente là dove tanti altri animali l'avevano lasciato. E noi avremmo dunque dovuto capire quello che capitava. Queste ondate incessanti di animali inutili che vengono dal fondo dei tempi a morire in continuazione davanti ai nostri occhi. E tuttavia noi restiamo lì a sperare qualcosa, nemmeno capaci di pensare la morte che siamo. Thank you. non farsi illusioni. Tanto la gente non ha niente da dirsi. Ognuno parla soltanto delle proprie pene personali. Si capisce? Ciascuno per sé. La terra per tutti. Poi certo cerchiamo di sbarazzarcene della nostra pena sugli altri quando è il momento dell'amore. Ma tanto la cosa non funziona. Sia un bel darsi da fare, alla fine ce la teniamo tutta intera la nostra pena. Poi magari ricominciamo, proviamo a piazzarla un'altra volta. Lei, signorina, com'è bella, signorina. E la vita ci riprende. Fino alla prossima volta in cui riproveremo ancora lo stesso giochetto. Lei, signorina, lei è proprio bella, signorina. Veramente. E nel frattempo stiamo a vantarci d'esserci riusciti magari a disfarcene della nostra pena. Ma tutti sanno che non è vero niente. Ce la siamo tenuta bella in caldo, tutta per noi. Dal momento, signori, che si diventa veramente brutti e ripugnanti in quel gioco quando si invecchia, non si riesce più a dissimularla, la propria pena, il proprio fallimento. Si finisce per avere la faccia piena di quella brutta smorfia che impiega 20, 30 anni e più a risalire finalmente dal ventre alla faccia. Ed è a questo forse che serve, a questo soltanto che serve un uomo. Una smorfia. Che lui ci mette una vita a confezionarsi e ancora non gli riesce sempre di portarla a termine. Tanto è pesante e complicata questa smorfia che bisognerebbe fare per esprimere la propria vera anima, senza nulla perdere. I giovani hanno fretta, hanno sempre fretta, vogliono andare a fare l'amore, i giovani, e non stanno a guardare per il sottile, in fatto di sensazioni. I giovani sono un po' come quei viaggiatori che s'abbuffano di tutto quello che trovano al buffet, purché gli diano anche solo quelle due o tre strofette che a loro serve a tirare sulla conversazione per scopare. Quello gli basta ai giovani, scopare gli basta ai giovani. Eccoli tutti felici subito, sono contenti facili ai giovani, perché i giovani godono come vogliono, tanto per cominciare. È che tutta quanta la giovinezza alla fine va a sfociare su una spiaggia bellissima in riva all'acqua, dove tutte le donne hanno l'aria di essere finalmente libere, dove sono così belle da non avere nemmeno più bisogno della menzogna dei nostri sogni. È certo che una volta che viene l'inverno è dura rientrare, è dura dirsi che è finita, ammetterlo. Si resterebbe lo stesso lì nel freddo, nell'età, perché si spera ancora. Siamo ignobili, ignobili, e si può capire, per carità, non bisogna mica dare la colpa a qualcuno, bisogna godere ed essere felici anzitutto. Questo è quello che penso. Quando cominciamo a nasconderci agli altri è segno che abbiamo paura di divertirci con loro, È una malattia questa qua. Bisognerebbe sapere perché ci ostiniamo a non voler guarire dalla solitudine. C'era un tipo che avevo incontrato durante la guerra all'ospedale, un caporale, che me ne parlava di questi sentimenti. Peccato che non l'ho mai più rivisto, questo ragazzo. La terra è morta, Bardamo, mi spiegava lui, e noi non siamo altro che dei vermi in piedi, noi altri, dei vermi sul nostro schifo di grosso cadavere, a mangiargli tutto il tempo le trippe e i veleni che fa. Non c'è più niente da fare con noi altri, siamo tutti marci. Spettacolo Viaggio al termine della notte, dall'omonimo romanzo di Louis Fernand Céline. Elio Germano alla voce, Teo Teardo chitarra live electronics, Laura Bisceglia al violoncello, Ambra Chiara Michelangeli alla viola. spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Fabrizio Pallara, curatore della rassegna Voce Parole, Teatro per Nuove Generazioni, al Teatro di Roma dal 26 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Ben trovato. Ciao, eccomi qui. Ce la presenti? Una rassegna di narrazione, il focus è un focus sulla Puglia quest'anno, nello specifico, che ha dimostrato negli ultimi anni essere un centro di grande produzione di qualità per le nuove generazioni e non solo. In generale quello che cerco di scegliere ormai da 3 edizioni per la rassegna, ma non solo, per tutta la stagione che curo per il Teatro di Roma, spettacoli rivolti alle nuove generazioni ma che sappiano dialogare anche con gli adulti, perché il centro dell'offerta è condividere un'esperienza tra adulti e bambini, proprio perché il teatro per le nuove generazioni ha questa grande capacità di unire il pubblico, ma più che altro di creare un'esperienza di relazione, e gli spettacoli che saranno presentati nella rassegna hanno questa capacità, non solo per temi ma anche per qualità e per capacità ovviamente di coinvolgere sia gli uni che gli altri in una relazione che non è soltanto andare a teatro insieme e vedere uno spettacolo, ma è quella in qualche modo di avere la capacità reciproca di potersi aprire gli occhi su alcune questioni, e quindi se l'adulto riesce ad accompagnare in una riflessione più cognitiva sugli spettacoli, il bambino riesce a far vedere cose che riguardano più la parte emotiva, ma più che dirle riesce a farle sentire attraverso i suoi occhi, attraverso la sua presenza, il suo modo di vedere lo spettacolo, e questo riesce proprio a coinvolgere gli adulti che li accompagnano in modo completamente diverso. Si tratta di 9 spettacoli, che panoramica ce ne fai? Iniziamo con uno spettacolo che è Storie d'amore d'alberi, che è uno spettacolo storico di Luigi D'Elia, adattato da Francesco Nicolini, riscritto da Francesco Nicolini, messo in scena e narrato da Simona Gambaro, e questo è molto interessante perché ecco, questo nello specifico è uno spettacolo che passa veramente da generazione in generazione, e Luigi a questo punto, dopo aver fatto tantissime repliche, ha passato il testimone a Simona Gambaro, che è un'attrice e autrice genovese, per continuare a narrare questa storia. Poi si continua con Esterina 100 vestiti, spettacolo molto molto bello della compagnia Burambò, che ha debuttato l'anno scorso a Castel Fiorentino. Si prosegue con Rosso Clown, che è uno spettacolo sempre della compagnia Burambò, ma in realtà non è tanto uno spettacolo, più una performance di condivisione tra artisti e spettatori, in cui si chiede agli spettatori di narrare o raccontare o condividere l'esperienza del Natale, che poi verranno rielaborate dagli artisti, appunto, che attraverso la narrazione del clown cercheranno di renderlo centro di un argomento condiviso. Poi si prosegue col Fiore Azzurro, sempre della compagnia Burambò, Club 27 con la compagnia La Luna nel Letto, nello specifico è una coproduzione tra compagnia La Luna nel Letto e Nasca Teatri, sempre pugliesi. Poi avremo Luigi D'Elia di nuovo con Zanna Bianca della Natura Selvaggia al Teatro India, e poi ci sarà invece L'Universo un materasso e Le stelle un lenzuolo e anche Pinocchio della compagnia del Sole con Albanese. Quindi veramente una panoramica trasversale sia su tematiche che su storie, quindi partendo da appunto storie classiche, storie più contemporanee, e quindi si avrà veramente la possibilità di ascoltare storie, proprio la sensazione di attraversare innanzitutto i luoghi del Teatro di Roma, perché gli spettacoli saranno programmati sia al Teatro India, sia al Teatro Argentina e sia al Teatro Torlonia, in una condivisione di spazi e condivisione appunto tra i pubblici e all'interno insomma anche di un momento che è quello del Natale, in cui appunto si auspica nonostante tutto una condivisione tra esseri umani. Dato che da tempo ti occupi di teatro per nuove generazioni, come si sta modificando nel tempo anche dato l'avvento del digitale? Il digitale, quindi in qualche modo tutta l'esperienza che i bambini ormai intercettano, che è quella appunto dei video, dei film, dei videogiochi, è sicuramente un'esperienza che diventa sempre più interessante, sempre più sofisticata, però l'esperienza del teatro è effettivamente un'altra cosa, cioè la cosa che spesso dico anche alle persone che fanno più fatica a venire a teatro con i loro figli, quello che dico è che il teatro non è una forma di intrattenimento, ma è un'esperienza, e come tale merita ovviamente un'attenzione e anche uno sforzo maggiore. migliore. Quindi quello che accade è semplicemente che si delinea sempre di più un solco, cioè una differenza tra ciò che è intrattenimento e ciò che è un'esperienza. Se ovviamente si vuole vivere l'esperienza del teatro, paragonarlo o compararlo all'esperienza del digitale in tutte le sue forme, si fa un errore, perché l'esperienza del digitale si pone in tutt'altra prospettiva, cerca di rendere l'esperienza più semplice possibile. Non che poi la qualità dell'esperienza sia minore, ma è la semplicità e quindi la facilità di fruizione dell'esperienza digitale. Il teatro è più complesso, bisogna fare già un viaggio per arrivare, per poi poter condividere insieme ad altre persone e stare lì. E questo fa la differenza, è un po' come cercare di spiegare che la fatica fa parte dell'esperienza. È come un viaggio a piedi e un viaggio in aereo. Non dico che il vero viaggio è a piedi, ma sicuramente mi sento più a mio agio nell'utilizzare la parola viaggio quando parlo di una passeggiata che quando parlo di un viaggio in aereo. E un po' la differenza è questa, sono due viaggi diversi. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Si può andare sul sito del Teatro di Roma, dove si trovano tutti i dettagli per poter prenotare gli spettacoli e anche ovviamente date e orari. Per quanto gli orari sono semplici, perché è sempre alle ore 5 del pomeriggio, per identificare gli spettacoli, i titoli, le fasce d'età, che sono molto importanti e molto accurate. Rassegna Voce Parole, teatro per nuove generazioni, al Teatro di Roma dal 26 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Un saluto e un ringraziamento al curatore Fabrizio Pallara. A presto! A presto Federico, grazie. Con Pino Carbone per presentare il teaser dello spettacolo di cui è coautore e regista, Un canto di Natale, processo al consumismo, che ha avuto il suo primo atto pubblico sabato 25 dicembre 2021. Ben trovato! Ben trovato a voi, grazie, grazie come sempre, sono contento di esserci, come sempre. Raccontaci! Un lavoro che parte da una lunga ricerca che sto portando avanti insieme a un collettivo artistico che è Progetto Nickel, nato proprio per essere un campo di sperimentazione artistica ma anche politica, sociale. Quindi questo campo di analisi, di ricerca, a un certo punto abbiamo incontrato Dickens, Un canto di Natale in particolare, che nella sua struttura ci consentiva di portare avanti i discorsi che stavamo intanto approfondendo, che stavamo ricercando, in particolare sul consumismo, nella sua struttura, vale a dire soprattutto i tre fantasmi, quelli del Natale passato, del presente e del futuro, ci hanno consentito di creare questa sorta di trittico e quindi di affrontare tre materie che sono in qualche modo l'ambiente, quindi il contesto che ci circonda, la società e in particolare il lavoro e l'individuo. Quindi li immaginiamo un po' come tre cerchi concentrici, come diciamo nel progetto, esposti come in una mostra. Quindi sono di fatto tre regie diverse. In più ce n'è una quarta che è lo spettacolo dal vivo. Questo perché? Perché questi tre momenti sono previsti in relazione alla scena, al live, con l'utilizzo di visori a 360 gradi, in realtà aumentata. Quindi ci sarà un lavoro video, intanto però c'è un lavoro musicale, lo spettacolo sarà sia un live, sia un film a 360 gradi, sia un concerto strumentale, quindi più che uno spettacolo è un progetto componibile e scomponibile. E ripeto, insomma, la struttura di Dickens ci ha dato la possibilità di poter esporre le questioni che noi abbiamo legato a un'analisi sul consumismo, e di fatto il consumismo lo mettiamo sotto processo, così come Dickens mette sotto processo Scrooge, noi mettiamo sotto processo il consumismo, e quindi anche i tre momenti per noi sono diventati le tre fasi processuali, quindi il passato la fase preliminare, il presente la fase dibattimentale, il futuro la sentenza. Quindi questa idea di Dickens ha combaciato con una serie di idee che avevamo e le ha rese possibili. Come è stato il confronto con le generazioni più giovani che fanno parte del progetto? Intanto proprio le generazioni più giovani sono per me il vero protagonista di questo lavoro. È lì che è partita l'analisi. Il progetto Nickel è un progetto che nasce da una fase di formazione che poi si è trasformata in una fase di residenza e che poi è diventata in questo caso in una fase produttiva. L'esplorare proprio le questioni che generazioni più giovani successive alla mia insomma, ho cercato di capire qual è la loro materia, quali sono le vertenze in cui sono loro sensibili, ma anche rispetto a un discorso estetico, insomma, lo spettatore che ci stiamo immaginando è uno spettatore ideale, è uno spettatore che va dai 15 ai 20-25 anni. L'idea è proprio di attingere da loro delle urgenze e quindi restituirle, parlare a loro. Il progetto di fatto si compone di attori giovanissimi, sono tutti under 35 e quindi è un progetto che guarda proprio alle nuove generazioni. Posto che è un lavoro multidisciplinare, come state pensando la messa in scena? Sempre Dickens ci dà una soluzione, vale a dire c'è questo personaggio Marley che è il primo fantasma che appare a Scrooge e che di fatto presenta i tre fantasmi alla protagonista Scrooge, che in questo caso è il pubblico, è la società, sono gli spettatori. Quindi Marley sarà in scena e illustrerà queste tre fasi appunto del processo, che sono il passato, presente e futuro. Gli spettatori in tre momenti dello spettacolo, invitati dal personaggio Marley che sta in scena, utilizzeranno i visori a 360 gradi. Ora, in questo momento il lavoro è proprio un lavoro in atto, per noi anche l'uscita del teaser il giorno di Natale, non casuale chiaramente, e perché appunto Dickens ambienta a Natale l'intero racconto e perché il Natale è giorno un po' simbolo del consumismo. Quindi l'idea era di farlo uscire esattamente il giorno di Natale, ma è qualcosa che esce in largo anticipo rispetto alla costruzione dell'intero progetto. Quindi è un progetto in atto, si sta costruendo, avremo delle fasi di lavoro, ora partiamo per una nuova residenza, quindi faremo un'altra fase di lavoro, poi ci sarà un momento in cui lavoreremo al film, insomma entro il 2022 debutterà lo spettacolo. Quindi ci sarà un rapporto reale tra la realtà virtuale e il live. Quindi lo spettacolo sarà tutto incentrato su questo rapporto, su ciò che sta succedendo in quel momento e su ciò che succede in un altro luogo, in un altro tempo, in un altro spazio. In chiusura ci dai tutti i riferimenti web per seguirlo? La pagina sia Facebook che Instagram di Progetto Nickel, ma anche la pagina Facebook, Instagram, il sito di Casa del Contemporaneo, che è la coproduzione, che questo è un progetto che nasce indipendente appunto con Progetto Nickel e che però si unisce a Casa del Contemporaneo in questa fase produttiva. Un canto di Natale, processo al consumismo, un primo momento pubblico di questo spettacolo è andato in scena sabato 25 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al coautore e regista Pino Carbone. A presto! Grazie, a presto, a prestissimo. L'agenda della settimana romana, sia teatrale che degli eventi culturali, con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica, ben trovato. Buon pomeriggio a tutti e auguri di buone feste a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Andiamo a vedere però invece cosa ci riserva la settimana teatrale, qualcosa un po' sparsa. C'è superato appunto Natale, andiamo a vedere intanto qualcosa che è già cominciato ieri sera come Coro Natalino di Gioia Salvatore e Carrozzeria Notte, che andrà avanti appunto in questi giorni fino al 30 di dicembre ed è il suo spettacolo contenitore, cuoro, con monologhi ironici, divertenti, ma anche molto profondi, attorno insomma alle strutture della nostra civiltà, oggi più che mai, è dedicato insomma al Natale, a tutto ciò che è attorno al nostro strambo Natale. Carrozzeria Notte, Gioia Salvatore, fino al 30 di dicembre. Per quanto riguarda la rassegna Voce e Parole, di cui abbiamo appena parlato con Fabrizio Pallara, la rassegna dedicata al teatro per le nuove generazioni, segnalo questa settimana nei tre spazi del Teatro di Roma, ovvero sia Teatro India, Argentina e Teatro Torlonia, un po' di cose interessanti. Sicuramente Luigi D'Elia e Francesco Niccolini con Zanna Bianca della Natura Selvaggia, 29 dicembre alle ore 17, sono domani pomeriggio, e appunto dedicato al grande capolavoro Zanna Bianca della letteratura per ragazzi e non solo. Ma vado a ricordare anche qualcosa tra le altre. Sicuramente il 30 di dicembre Esterina 100 vestiti della compagnia Burambo, stessa compagnia per il 1° gennaio, il fiore azzurro alle ore 17, ma il primo a Stereo 100 Vestiti sarà al Teatro Torlonia, mentre il secondo, il fiore azzurro, sarà al Teatro Argentina. Una cosa che vorrei ricordare, perché sarà non in teatro ma in televisione, riguarda però il teatro, sarà il 1° gennaio, giorno diciamo un po' della stasi post Cenone, alle ore 15:30 chi vorrà su Rai 3 potrà assistere al documentario dedicato alla grande regista Giorgio Strehler. Strehler, come la notte, questo il documentario diretto da Alessandro Turci, era un viaggio all'interno diciamo della grande carriera, della grande avventura che è stata la carriera di Giorgio Strehler, fondatore del Piccolo Teatro di Milano e regista di spettacoli storici che insomma torneranno attraverso le voci dei grandi protagonisti del passato più o meno recente. Alle ore 15:30 del 1° gennaio andiamo a scoprire Strehler com'è la notte. Attenzione, no, 15:10 mi dicono dalla regia. In realtà non c'è nessuna regia, ma insomma sono io, sto fingendo di averne una, e del resto come si può fare diversamente. Allora, mentre si parla di questo, vado anche a ricordare, come avevamo già detto, che fino al 2 gennaio ancora al Teatro Ambrogio Vinelli resta, che aveva già debuttato qualche giorno fa, Mine Vaganti di Ferzan Özpetek, spettacolo che ha lo stesso titolo, la stessa storia del film pluripremiato del grande regista turco, e in scena ci saranno Francesco Pannofino, Yahya Forte, insomma degli attori di sicura presa sul pubblico. Un adattamento teatrale di questo film sarà in scena fino al 2 gennaio al Teatro Ambrogio Vinelli. Poi, per quanto riguarda ancora il Teatro Biblioteca Quarticciolo, vado a ricordare che da oggi fino al 30 dicembre in teatro c'è il programma di performance, installazioni, formati ibridi a cura del coreografo Enzo Cosimi, che letteralmente trasforma gli spazi del Teatro Biblioteca Quarticciolo in un percorso che mette al centro il corpo e il tempo, biografico e coreografico, generando una pluralità visiva multisensoriale. Molto interessante questo lavoro, che porta anche alla presentazione di un libro curato da Maria Paola Zedda, proprio Enzo, il corpo originario Enzo Cosimi, una conversazione quasi angelica, 10 domande per uso domestico. Questo il libro che verrà presentato, mentre un'installazione performativa sarà presente negli spazi nei giorni appunto indicati, dal 28 ad oggi fino al 30, Take Me Higher, è una installazione immersa tra le immagini del fotografo e artista Lorenzo Castore, un lavoro sul rapporto tra il desiderio e i suoi aspetti più profondi. Poi insomma, ci saranno varie altre attività appunto dedicate da Enzo Cosimi al teatro e dal teatro a Enzo Cosimi, quindi andata e ritorno per quanto riguarda questa dedica meravigliosa. Grande coreografo, quindi, dal 28 al 30 dicembre al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Ultimi appuntamenti che andiamo a ricordare sono due precisamente. Il primo ha già debuttato, ma è in scena fino al 30 di dicembre, e sarà il Sonora Desert di Muta Imago. Ricordiamo lo spettacolo che durante la scorsa estate doveva essere in scena al Teatro India, ci torna al Teatro India, non abbiamo potuto vederlo in scena per lo sciopero reiterato dei lavoratori del Teatro India, ed ecco qui che torna questo spettacolo, ma che è più un viaggio immaginario, un'esperienza percettiva, che un'installazione, una performance, un concerto, che insomma porta i visitatori in una dimensione al limite del sé e si muove tra ricordi personali, la memoria inconscia e certe immagini archetipiche che si presentano in dialogo con le musiche composte da Alvin Curran. Questo fino al 30 dicembre con Sonora Desert al Teatro India con Muta Imago. E poi l'ultimo spettacolo di cui andiamo a parlare un po', lo spettacolo della settimana, perché ce ne andiamo al Teatro Argentina dal 28 di oggi, in realtà debuttato già ieri, ecco, ora che me ne accorgo, e sarà in scena fino al 6 di gennaio, La vita davanti a sé, Silvio Orlando, che fa la regia di questo lavoro, che è tratto dal romanzo omonimo di Davanti a sé di Romain Gary, che è appunto l'autore, in Italia è tradotto da Neri Cozza, pubblicato da Neri Cozza, e con l'ensemble dell'orchestra Terra Madre, Silvio Orlando se ne va in scena sul palco del Teatro Argentina per questo monologo con musica attorno. Il protagonista è Momò, un bimbo arabo di 10 anni e molta vita davanti, che vive nel quartiere multietnico di Belleville, nella pensione di Madame Rosa, una ex prostituta ebrea che si prende cura dei figli mai riconosciuti delle colleghe più giovani. Questo è quello che vedremo al Teatro Argentina fino al 6 gennaio. Silvio Orlando, La vita davanti a sé di Romain Gary. E questo è tutto. Ciao a tutti! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.